14 gennaio del giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 14 gennaio. Il giovane di studio del Maralli è invece un vecchio tentennone che sta sempre nella stanza d'ingresso, seduto a un tavolino con lo scaldino tra le gambe e scrive sempre, dalla mattina alla sera, sempre copiando e ricopiando le medesime cose. Io non so come fa a non incretinire, ma forse dipende perché è cretino di suo. Eppure mio cognato ha molta fiducia di lui e ho sentito spesso che l'ha incaricato di incombenze anche difficili, che non so come faccia a disimpegnarle con quella faccia da piacciaddio che si rimpasta. Invece se il Maralli avesse giudizio, quando ha qualche commissione da sbrigare alla svelta e per la quale c'è bisogno d'un po' di istruzione e d'intelligenza, dovrebbe affidarla a me e così piano piano farmi impratichire nella professione e tirarmi su per avvocato. Mi piacerebbe tanto di diventar come lui ed andar nei tribunali a difendere i birbanti, ma quelli buoni però, cioè che son diventati cattivi per disgrazia e per forza delle circostanze nelle quali si son trovati, come è successo a me. E lì vorrei fare certi bei discorsi, urlando con tutto il fiato che ho in corpo, e mi par d'averne più di mio cognato, per fare star zitti gli avversari e far trionfare la giustizia contro la prepotenza delle classi sfruttatrici, come dice sempre il Maralli. Io qualche volta mi trattengo a discorrere con Ambrogio, che è appunto il giovane di studio e che è dello stesso mio parere. L'avvocato Maralli si farà strada, mi dice spesso, se lei diventasse avvocato troverebbe qui nel suo studio la nicchia bella e fatta. Oggi intanto ho incominciato a impratichirmi un poco di processi e di tribunali. Mio cognato era fuori e Ambrogio a un certo punto ha posato lo scaldino, è uscito di dietro il suo tavolino e mi ha detto «Che mi potrei fidar di lei, Sor Giannino, per un piacere?» Gli ho risposto di sì e lui allora mi ha detto che aveva da andare un momento a casa sua dove aveva dimenticato certe carte importantissime che avrebbe fatto presto. «Lei stia qui finché torno io e chiunque venga lo faccia aspettare». «Mi raccomando però, non si muova di qui. Posso star sicuro, Sor Giannino?» L'ho rassicurato e mi son messo a sedere dove sta lui, con lo scaldino tra le gambe e la penna in mano. Di lì a poco è entrato un contadino, un tipo buffo, con un ombrellone verde sotto il braccio, e che, rigirandosi il cappello tra le mani, ha detto «Che è qui che ho a venire?» «Chi cercate?» gli ho domandato. «Del sor avvocato Maralli. L'avvocato è fuori». «Ma io sono il suo cognato e potete parlare liberamente. È come se ci fosse lui in persona. E voi chi siete?» «Chi sono io? Io son Gosto, contadino del Pian dell'Olmo, dove mi conoscono tutti, e anzi mi chiamano Gosto Grullo per distinguermi da un altro Gosto che sta nel podere accanto. E sono, come lei saprà, ascritto alla Lega, dove pago 2 soldi tutte le settimane che Dio mette in terra». «È il sor Ernesto, lo può dire, che è il nostro segretario, e sa far di conto, perché lui non è un contadino come noi altri disgraziati. Sicché io ero venuto a sentire per quel processo dello sciopero con la ribellione che deve andare fra 2 giorni, e dove son testimonio, come qualmente il giudice istruttore mi ha mandato a chiamare per farmi l'interrogatorio, ma io prima di andare da lui son venuto qui per sentire come mi devo regolare». Io non ne potevo più dal ridere, ma mi son trattenuto e anzi ho preso un'aria molto seria e gli ho detto «Come andò il fatto?» «Guà, il fatto andò che quando noi ci si trovò di fronte ai soldati, si cominciò a vociare e poco dopo Gigi il Matto e Cecco di Merenda cominciarono a tirar sassate e allora i soldati spararono. Ma che le ho a dire queste cose al giudice istruttore?» «Si intende esser bestie, ma a questo punto non credevo mai che un contadino ci potesse arrivare. Hanno proprio ragione a chiamarlo Gosto Grullo. Come si fa, dico io, a non sapere che in tribunale i testimoni devono dire la verità, tutta la verità e niente altro che la verità, che sono cose che le sanno anche i bambini d'un anno?» Io gli ho detto di dire le cose come stavano, che in quanto al resto poi ci avrebbe pensato il mio cognato. Ma i compagni di Pian dell'Olmo, però, mi hanno raccomandato di negare il fatto delle sassate. «Perché sono ignoranti e grulli come voi, fate come vi dico io. Non dite nulla a nessuno di quel che avete fatto e vedrete che tutto anderà a finir bene». «Guà, lei non è il cognato del suo avvocato Maralli?» «Sicuro». «E a discorrere con lei non è lo stesso che discorrere con lui?» «Precisamente». E quando è così, vo via tranquillo e dico come stanno le cose per filo e per segno. Arrivedella e grazie. E se n'è andato. Io son rimasto molto soddisfatto d'aver sbrigato quest'affare a mio cognato. Pensare che se stessi qui sempre potrei preparare i processi, dare il parere ai clienti ed essergli utile e nello stesso tempo divertirmi chissà quanto. Sento proprio d'esser nato per far l'avvocato. Quando è tornato Ambrogio e mi ha domandato se c'era stato nessuno, gli ho risposto «C'è stato un grullo, ma me lo son levato di tra i piedi». Ambrogio ha sorriso, è tornato al suo posto e si è messo lo scaldino tra le gambe e la penna tra le dita e ha ricominciato a scrivere sulla carta bollata. Fine del 14 gennaio.